Roma Trastevere, 26 dicembre 1973. Care Eleuterio, la casa nella quale la mia sorellina e io ci scambiavamo chicche e giochi, oggi vede due donne scambiarsi confidenze e amarezze. Tu sei la mia principale amarezza, che io chiamo grande, e la mia sorellina immensa. Le vetrine dei negozi sono colme di frutta secca e di champagne. E io penso che lo champagne è un vino esibizionista che prima di mostrarsi al pubblico ne richiama l'attenzione con un'esplosione di tappo. E penso anche che sei un imbecilletto, Eleuterio, se non capisci che il tempo libero è una faccenda importante e che va pianificata, sempre tua. Roma Parioli, 27 dicembre 1973. Imponderabile sempre mia. Io mi chiedo perché te e la tua sorellina non continuate a scambiarvi chicche e giochi. Dato il livello mentale di ambedue, la cosa sarebbe più che normale. Per dimostrarti che non ho niente contro tua sorella, le ho comprato un regalo. Una tuta di lana contro gli reumatismi. Si porta a carne. Dille quindi di radersi la schiena e il torace. Per quanto riguarda la pianificazione del tempo libero, continuo a non essere d'accordo, Eleuterio. Po' scritto. Dimenticavo, di a tua sorella di non farsi la barba per qualche giorno. Un mio amico regista sta girando i Tre Moschettieri e vorrebbe affidarle il ruolo di Porthos. Roma Trastevere, 28 dicembre 1973. Care Eleuterio, chat. Ho scritto gatto in francese, poiché non conoscendo questa lingua né tu né io, è chiaro che tra noi non c'è colloquio neppure in francese. La mia sorellina ha letto la faccenda della tutina e anche quella di Porthos. Ha comprato una grossa noce di cocco, gli ha messo gli occhiali, poi l'ha stretta in una mano e la noce di cocco ha fatto cric. Dice che lo stesso rumore lo sentirò quando vi incontrerete. Il tempo libero è un problema che va risolto e nel migliore dei modi. Insisto, il termosifone è freddo e io penso che è tutta una manovra dell'inverno che per farsi notare ha stretto un patto con un suo amico sceicco, sempre tua. Roma Farioli, 29 dicembre 1973. Insostenibile sempre mia. La tua assenza comincia a pesarmi. Le serate sono lunghe. La televisione chiude i programmi in anticipo. Tu non ci sei. E io fino al momento di coricarmi non so con chi sfogare la mia rabbia. E non ho nessuno da criticare. Torna. Qui avvengono cose strane. Qualcuno tenta di avvelenarmi. Da due giorni il dentifricio ha un sapore strano e non pulisce. Eleuterio. Poi scritto. La portinaia ha risolto il mistero del dentifricio. Dice che la pasta d'acciughe va tenuta in cucina e non sulla mensola del bagno. Roma Parioli, 30 dicembre 1973. Care Eleuterio, micione, sono di nuovo qui dove tu mi hai chiesto di tornare perché invece ero lì. Ho scoperto che il gatto bianco che gira per casa è quello nero di sempre, che deve aver dormito in bagno sul tappetino che era sotto il borotalco. Lo studio è di nuovo praticabile. Guardo l'enciclopedia e io penso che l'enciclopedia è il pronto soccorso della tua ignoranza. Penso anche alla nostra ultima lite, della quale ricordo tutti i particolari. Io ero qui sveglia e tu no. Eleuterio? Eleuterio! Che c'è? Ti ho svegliato perché dormivi, Eleuterio. Ma no, pensavo che mi avessi svegliato perché mangiavo. Ma perché mi hai svegliato? È domenica, sì o no? Ti ho svegliato perché sono le 7:30 e siccome è domenica, devi imparare a godere tutto il tuo tempo libero. Alzati! No, il mio tempo libero me lo voglio godere come mi pare. Non puoi, Eleuterio, abbiamo già fatto un piano. Abbiamo! Chi? La mia sorellina e io. La tua sorellina e te. Ma perché non mi chiamo Landru? Perché non mi si dà la possibilità di diventare biomicida con la gioia della premeditazione? Perché? Ma forse, Forse alzandomi potrei... Alzati, se no vai fuori tabella di marcia. Abbiamo pianificato il tuo tempo libero in maniera proficua e razionale. Coraggio, si va nei boschi a cogliere funghi. Se sono velenosi e tua sorella resta a colazione da noi, vengo subito. Non incominciare con mia sorella. E sbrigati, che dopo la passeggiata nel bosco dobbiamo fermarci per uno spuntino al sacco. Poi, mentre la mia sorellina e io raccoglieremo fiori selvatici, tu giocherai a bocce con il padrone dell'osteria La Pergola. E io, secondo te, dovrei giocare a bocce? Eleuterio, non puoi usare il condizionale. Devi giocare a bocce. È uno sport sano e distensivo. Conosco solo uno sport sano e distensivo. Il safari. Sempre che la selvaggina sia tua sorella. Sei un ingrato, Eleuterio. Mia sorella pensa al tuo bene pianificando il tuo tempo libero e tu la vorresti usare come bersaglio per il tiro al volo. No, c'è errore. Parlavo di safari. Il tiro al volo non c'entra. Fucile a pallettoni. Per l'ippopotamo ci vogliono fucili a pallettoni. Eleuterio, pallettoni. Eleuterio, se non la smetti con mia sorella, a costo di rovinare la coppia, ti rompo questo lumetto in testa. Alzati subito, che ci stai rovinando tutto il piano della giornata festiva. La mia unica giornata festiva sarà quella in cui ti deciderai a promuovermi marito inconsolabile. Non contare sulla mia collaborazione. Alzati subito. E va bene. Impiegherò il tempo libero giocando. Facciamo un bel gioco, eh? Io ti faccio delle domande e tu rispondi. Sai che divertimento. Lo dici tu. Io mi chiamo Torquemada e faccio le domande. Tu fai un po' di resistenza, io insisto. Che vuoi fare con quella candela accesa? Adesso vedrai, io sono Torquemada. Non ti avvicinare, Eleuterio. Io sono Torquemada e tu non collabori. Allora diventi nella mia fantasia una balla di paglia alla quale io avvicino la candela. Aiuto, Eleuterio, non scherzare. Mai stato così serio. Vieni qua, non fuggire. Ho pianificato il mio tempo libero. Perché scappi? Io non scappo, torno da mia sorella. Piromane! Ricordo perfino i dettagli, ma quando rientrerai, come al solito, farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Stavamo dicendo con la mia sorellina che sarebbe il caso di incrementare le attività sportive delle masse. E siccome...